giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Elezioni comunali in corso a Pordenone, Monfalcone, San Pier di Sonzo e Nimis per il rinnovo degli organi dei quattro comuni, due con possibile ballottaggio tra due settimane. Affluenza totale del 39%, si vota anche oggi fino alle 22. Caso Resinovic, dopo la perquisizione della polizia a casa del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, iscritto nel registro degli indagati, che verrà sentito dagli inquirenti della Procura di Trieste. Cantiere navale fermo oggi a Monfalcone, sciopero di 4 ore alla Fincantieri, indetto da FIOM, FIM e WILM, massiccia l'adesione all'astensione per il rinnovo contrattuale. Da oggi la strada di Passo Monte Croce Carnico sarà di nuovo percorribile tutti i giorni dalle 6 alle 21. Gli interventi da concludere riguardano i tunnel paramassi che saranno ampliati per la sicurezza, installato il sistema di emergenza che avvisa di possibili movimenti franosi. Antartide, uno studio internazionale coordinato anche dall'Università di Trieste, ha rivelato per la prima volta un evento climatico estremo risalente al cosiddetto periodo caldo medievale. Lo sport, il basket a Udine, grande festa per la promozione di Apu in Serie A, ha battuto Rimini per 95-86, la squadra di Vertemati trascinata dal capitano Ali Begovic, l'ultima promozione nel 2000. Nella massima serie, brutto inciampo per la Pallacanestro Trieste, sconfitta in trasferta dalla Reyer Venezia per 103-71, biancorossi, praticamente quasi mai in partita. Volley maschile Serie A2, trasferta amara per la Tinet, che ha perso a Cuneo ed è così costretta a rimandare la bella per giocarsi la finalissima promozione in Superlega mercoledì al Palaprata. Ancora un cordiale buongiorno da Livia Liberatore e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Urne aperte dunque a Pordenone, Monfalcone, San Pier di Sonzo e Nimis per il rinnovo degli organi dei quattro comuni, due con possibile ballottaggio tra 2 settimane. Ricordiamo che si vota anche oggi fino alle 22, orario ampliato per venire incontro agli elettori di fede ebraica che stanno celebrando la Pasqua. L'affluenza si attesta al 39%, il dato aggiornato verrà reso noto alle 15. Massiccia l'adesione allo sciopero proclamato per oggi in via unitaria da FIOM, FIM e WILM alla Fincantieri di Monfalcone per il rinnovo contrattuale. Fermo il lavoro in cantiere, spiega le ragioni Moreno Luxic della FIOM CGL. I temi principali sono quelli del salario, dell'orario di lavoro e della sicurezza, ma un tavolo di trattativa per il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici ancora non c'è. Per questo i lavoratori di Fincantieri a Monfalcone sono in sciopero per 4 ore per ciascun turno con un presidio davanti alla portineria contro Finmeccanica e Assistal, il cui atteggiamento viene definito inaccettabile. Moreno Luxic, FIOM CGL. È uno sciopero che non riguarda i contenuti, ma purtroppo riguarda appunto un tavolo di trattativa che ancora non c'è. Noi stiamo scioperando per avere un tavolo di trattativa, cosa che in un paese industrializzato come il nostro è quantomeno insomma imbarazzante, e quindi lo sciopero di oggi dimostra che lavoratrici e lavoratori di questo cantiere hanno voglia di avere il contratto nazionale. C'è stata un'adesione massiccia, proseguiremo insomma con la mobilitazione fino a che non ci sarà appunto questo tavolo. La produzione è dunque ferma fin dalle primissime ore del mattino, massiccia l'adesione. Michele Zoff, FIM CISL. È stata pressoché del 100%, adesso sono fuori anche parecchi camion che devono entrare, ma l'adesione è stata massiccia, anche grazie all'aiuto delle RSU, delle aziende più grande dell'appalto. La protesta è stata indetta unitariamente dalle 3 sigle FIOM, FIM e WILM. Andrea Oliar, WILM. I punti principali per cui stiamo scioperando oggi, che sono sul tavolo di trattativa che purtroppo ancora non c'è, sono il salario. I lavoratori hanno avuto una perdita di potere d'acquisto superiore all'8%. L'orario di lavoro, chiediamo una riduzione, visto che sono anni che siamo fermi lì. La sicurezza, è impossibile che nel 2025 continuiamo ad avere ancora 3 morti al giorno sul lavoro. Questi sono i temi principali, insomma, del contratto, per questo che stiamo scioperando. Monfalcone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora spostiamoci al passo di Monte Croce Carnico, perché da oggi il collegamento con l'Austria viene ripristinato con orario dalle 6 alle 21, dopo più di un anno di stop per lavori in seguito alla frana del 2 dicembre del 2023 e dopo una prima parziale riapertura nel gennaio del 2025 nelle sole giornate di sabato e di domenica con senso alternato. La cerimonia in quota, la presenza delle autorità regionali e della Carinzia, i mezzi potranno circolare come prima della frana, mentre di notte la strada sarà ancora chiusa per ulteriori lavori di messa in sicurezza. Verranno allungate le gallerie paramassi, già installato il sistema di emergenza che avvisa di possibili movimenti franosi. 20 milioni di euro spesi fin qui per il ripristino della percorribilità della strada. L'obiettivo era quello di riaprirla prima di Pasqua e della serie di ponti festivi di maggio che tradizionalmente portano molti turisti austriaci in Friuli Venezia Giulia. Un'apertura molto attesa infatti da parte degli operatori turistici, come sentiamo nell'intervista a Silvio Ortis, presidente di Rete Impresa Visit Zoncolan. Silvio Ortis, presidente della Rete d'Impresa Zoncolan, dopo un anno e quasi sei mesi dalla chiusura dopo la frana, il 2 dicembre 2023, riapre adesso tutti i giorni, tutta la giornata, Passo Monte Croce Carnico. Quali sono state le conseguenze sull'economia locale e sul turismo di questa chiusura? È stata una difficoltà estrema, anche perché io sono presidente di Visit Zoncolan, una rete d'impresa che abbraccia sia questa valle che praticamente tutto il comprensorio dello Zoncolan. Con più sono presidente dell'albergo diffuso di Sutrio e i dati li abbiamo. Abbiamo avuto una perdita intorno al 30%. E chiudere la via Giulia Augusta, perché così si chiamava un tempo, che potrebbe sembrare una sciocchezza, invece porta dei danni veramente difficilissimi. Le nostre imprese hanno faticato da morire per resistere, si era fermato il mondo. La realtà infatti è questa: l'uomo è abituato a non apprezzare le cose quando ha, e noi ci siamo accorti stavolta, dopo forse secoli, che valore abbia questa strada per noi, ma non solo per noi, perché è riduttivo pensare questa valle, il territorio della Carnia, per la regione intera stessa. Sta gente è in rotta per Grado e Lignano. E rispetto alle ipotesi per una soluzione di medio-lungo periodo, quindi dalla variante di valico al tunnel, cosa ne pensano i residenti della vallata, ma soprattutto le attività economiche che portano ricchezza e prosperità alla vallata stessa? Io dico che un miglioramento della strada, quello che poi adesso oggettivamente la regione e la politica ha fatto, anche se la strada è com'è, l'ha fatta a luce in quella volta con altre prospettive, però comunque è ancora importante, è una delle strade forse più belle d'Europa. Per le varianti noi credo che la popolazione sia aperta a tutto, sia al tunnel che alla variante di valico, perfetto. Stanno i tecnici fare la corretta valutazione. Paluzza, Lillo Montaltomanella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora torniamo sul caso Resinovic. Dopo la perquisizione della polizia a casa del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, che verrà sentito dagli inquirenti della procura di Trieste. Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati. Sarà sentito in procura Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, unico indagato, almeno per ora, nell'inchiesta per omicidio volontario della donna, scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio del 2022. Dopo la notifica dell'avviso di garanzia al 73enne, la sua abitazione è stata oggetto di una lunga perquisizione da parte degli inquirenti. Dopo 7 ore dalla sua casa sono stati portati via moltissimi arnesi, soprattutto coltelli che Visintin affila per negozi di vario genere, un maglione giallo e dei guanti arancioni, perché il giorno della scomparsa di Liliana Resinovic Visintin indossava una maglia e dei guanti dello stesso colore, secondo le riprese della sua telecamera installata sulla bicicletta. E dalla nuova perizia, da cui è emerso che non si è potuto trattare di suicidio, il decesso sarebbe risalente a 4 ore circa dopo la colazione. Il percorso investigativo degli inquirenti sta quindi escludendo il coinvolgimento di Claudio Sterpin, l'uomo con cui Liliana Resinovic aveva una relazione, che avrebbe dovuto incontrarla quella mattina alle 10.30, ma la donna a quell'appuntamento non è mai arrivata. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un carabiniere di 30 anni, originario di Pordenone, che era in tribunale a Trani per testimoniare, ha salvato la vita ad un uomo colpito da un arresto cardiaco. Il vice brigadiere Patrick Zaia, in servizio da poco al comando provinciale dei carabinieri della provincia Barletta, Andria Trani, è riuscito a salvare un sessantenne colto da malore mentre era in un'aula del tribunale. Ad attirare l'attenzione del militare sono state le urla di un addetto alla sicurezza che chiedeva se ci fosse un medico per aiutare un uomo quasi esanime. Il carabiniere ha raggiunto il sessantenne, gli ha strappato la camicia e ha alternato i massaggi cardiaci alle manovre con un defibrillatore. Il sessantenne è così rimasto in vita fino all'arrivo del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale ad Andria. L'uomo è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. La tempestività dell'intervento e la competenza del militare nel corretto uso degli elettrodi del defibrillatore hanno evitato la tragedia nel Palazzo di Giustizia, hanno evidenziato i carabinieri in una nota. Vediamo il meteo, cielo in prevalenza coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste e Gorizia 12 gradi e mezzo, a Pordenone 15, a Udine 16, a Sappada 6 gradi e mezzo, Piancavallo 7 e mezzo, Forni di Sopra 11 gradi, Tarvisio 12, Tolmezzo 13 e mezzo, sul Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, sul Lussari 5 gradi, a Grado 13, a Lignano 13 e mezzo. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi avremo cielo coperto, piogge sparse, moderate o abbondanti, che nelle prossime ore saranno sempre più diffuse e in progressiva intensificazione. Quota neve a 2300 metri circa. In serata, possibile scirocco moderato sulla costa. A scuola sono in costante aumento i casi di alunni che manifestano in classe comportamenti aggressivi. Per far fronte a questo problema c'è stato un incontro a Palmanova promosso dalla Consulta regionale dei disabili. Obiettivo: creare un team di insegnanti e consulenti esperti in sinergie con reparti di neuropsichiatria infantile. È l'emergenza del momento. Nelle scuole di tutta la regione, di ogni ordine e grado, dall'infanzia alle superiori, segnala in un report l'Ufficio Scolastico Regionale il continuo aumento di casi di alunni con condotte comportamentali, educative e socialmente disfunzionali che manifestano improvvise reazioni violente e aggressive durante la loro presenza in classe nei confronti dei compagni e del personale scolastico che interviene per contenerli e subisce percosse, persino lesioni fisiche, con conseguenti ricoveri in pronto soccorso e segnalazioni al Tribunale dei Minori nei casi più gravi. Una situazione che viene definita di diffuso malessere e di non sicurezza vissuta da docenti, dirigenti, collaboratori scolastici, famiglie e alunni. Sono studenti con disabilità certificate, ma anche senza, precisa la dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Beltrame, che sottolinea come l'emergenza stia destando preoccupazioni e abbia colto impreparate le scuole. Col contributo di 250.000 euro dalla regione, quest'anno sono state attivate ore di sostegno aggiuntive per 305 studenti problematici di 74 istituti comprensivi, ma sono ben di più, fa sapere ancora Beltrame. Intanto, visti i numeri, si punta a creare un team di insegnanti consulenti che potrà essere di supporto agli insegnanti nelle scuole nel trovare strategie e soluzioni tecniche per gestire e dare risposte all'emergenza. Va in questa direzione l'incontro promosso dalla Consulta regionale dei disabili a Palmanova, nella sede dell'area welfare della regione, che ha riunito i referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle neuropsichiatrie infantili delle tre aziende sanitarie, oltre che degli ambiti territoriali. Un primo passo per affrontare il problema in modo strutturale, rimarca il presidente della Consulta Brancati. Il prossimo incontro in agenda a maggio servirà a definire il programma di formazione per il team degli insegnanti consulenti che andranno a supporto delle scuole e un protocollo tecnico tra l'Ufficio Scolastico Regionale e le neuropsichiatrie infantili con l'obiettivo di partire già dal prossimo anno scolastico. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo in ambito scolastico perché le festività pasquali unite al ponte del 25 aprile consentiranno quest'anno lunghe vacanze per gli studenti. Per venire incontro alle famiglie, il comune di Pordenone ha organizzato una serie di attività. Più di 400 bambine e bambini delle scuole primarie di Pordenone, che ospitano i seggi elettorali, sono impegnati in attività ludico-sportive pensate dal comune per venire incontro alle famiglie e trasformare un disagio o la scuola chiusa in opportunità. Flavia Marastone, dirigente del settore sport e istruzione del comune di Pordenone. Il comune già da qualche anno ha pensato di trasformare questo disagio in un'opportunità per i ragazzi. Quindi non solo solo un momento per lasciare liberi i genitori di poter andare a lavorare, ma anche un momento proprio dedicato ai ragazzi, che spesso, non tutti almeno, riescono ad avvicinarsi allo sport già da piccoli. In questo momento possiamo dedicare due mattine solo per loro a tutti gli sport, quindi dalle arti marziali al basket e anche sport da tavolo come la dama o gli scacchi. Io ho visto dei bambini entusiasti. L'iniziativa del tutto gratuita per le mattinate di oggi e domani coinvolge 5 impianti sportivi comunali situati nei diversi quartieri della città, con la preziosa collaborazione delle associazioni sportive. Davide Endrigo della Polisportiva Villanova. Abbiamo pensato di dividerli in 5 gruppi in cui fanno diverse attività: la dama, il tennis, il judo, il sumo, abbiamo utilizzato la bocciofila, quindi le bocce, e diversi giochi di abilità per coinvolgere il più possibile questi bambini. Qual è la risposta? Penso in maniera positiva, i bambini si stanno divertendo e quindi noi siamo contenti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un viaggio sul Carso tra le trincee della Grande Guerra e i luoghi simbolo della memoria delle foibe è iniziato stamattina e prosegue fino al 16 aprile il viaggio del ricordo in Friuli Venezia Giulia nei luoghi delle foibe per 74 studenti di 10 istituti romani e 5 scuole dell'Interland. Un percorso pensato per far conoscere da vicino le vicende degli eccidi avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale tra il 43 e il 45 nei territori delle ex Venezia Giulia, dal Quarnaro e della Dalmazia. In questi luoghi farà tappa anche la delegazione del Comune di Roma, composta dal sindaco Roberto Gualtieri. Il programma è iniziato con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario Militare di Re di Puglia, luogo simbolo della Prima Guerra Mondiale. Nel pomeriggio la visita prosegue al Magazzino 26 e al Narodni Dom. A seguire la tappa alla Risiera di San Sabba, con la deposizione di una corona in memoria delle vittime e un omaggio alla lapide dedicata al piccolo Sergio De Simone, bambino vittima degli esperimenti medici nazisti di Mengele. Domani la delegazione si sposterà a Gorizia, dove gli studenti incontreranno il sindaco di Roma Gualtieri. Nel pomeriggio visita la foiba di Basovizza e al museo annesso, con deposizione di corone alla foiba e al cippo commemorativo. La conclusione del percorso è prevista per mercoledì 16 a Pola, in Istria, dove la delegazione incontrerà associazioni e realtà locali impegnate nel lavoro sulla memoria storica e civile. Un evento di fusione glaciale senza precedenti, risalente al periodo caldo medievale, ha lasciato tracce sorprendenti su un ghiacciaio della Terra Vittoria settentrionale in Antartide. A rivelarlo è uno studio internazionale pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, che ricostruisce per la prima volta gli effetti di un repentino riscaldamento climatico avvenuto tra 900 e 989 anni fa, in grado di modificare profondamente il paesaggio antartico. Lo studio, coordinato da Emanuele Forte dell'Università di Trieste, da Mauro Guglielmin dell'Università dell'Insubria e Centro di Ricerca sui Cambiamenti Climatici, insieme al CNR e al Politecnico Federale di Zurigo, documenta un fenomeno mai osservato prima: un'intensa erosione fluviale e il trasporto di sedimenti sulla superficie del ghiacciaio, originati da un deflusso d'acqua di fusione che arrivò a scavare un canale lungo almeno 4 chilometri. Lo studio, infatti, mostra come l'acqua abbia generato un'impronta indelebile sul ghiacciaio, lasciando una discontinuità nella stratigrafia e accumulando sedimenti in un deposito gradato, chiara indicazione di un progressivo rallentamento del flusso d'acqua. A differenza degli attuali fenomeni di fusione osservati nell'Antartide orientale e sulla banchina di Nansen, l'evento medievale rappresenta un caso eccezionale, avvenuto durante una fase naturale di riscaldamento climatico globale, perché lo stesso ghiacciaio oggi è permanentemente innevato e non presenta alcun segno di fusione superficiale, sottolineando ulteriormente l'unicità e importanza di quanto rilevato. Questa scoperta offre una nuova prospettiva sulla stabilità dei ghiacciai antartici e mette in luce come anche brevi episodi di riscaldamento climatico, non sempre rintracciabili attraverso i tradizionali metodi di analisi paleoclimatica, possano provocare profonde e durature trasformazioni del paesaggio glaciale. I risultati evidenziano la sensibilità dei ghiacciai antartici ai cambiamenti climatici improvvisi e suggeriscono il potenziale impatto di fenomeni estremi dovuti al cambiamento climatico anche nel prossimo futuro. Presentata questa mattina la 12ª edizione del Festival Udine Castello Angeli e Segrete, organizzato dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con EFA International, quest'anno sottotitolato Relazioni. Oltre al Castello di Udine ci sarà un focus su Palmanova, tra cunicoli sotterranei e visita ai bastioni, e su Cividale con il celeberrimo tempietto longobardo. E poi il Castello di Artegna, dalla cui pieve svetta l'angelo indicatore, e la chiesa matrice di Moruzzo, anch'essa assieme alla Basilica Santa Eufemia di Grado, portatrice di un angelo segnavento. Il libro che ripercorre la vita dello scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini, intitolato Un italiano sbagliato, pubblicato dall'editore Marsilio in collaborazione con l'IRCI, viene presentato questo pomeriggio a Trieste. L'appuntamento alle 17.30 nella sede dell'IRCI in via Torino, dove il critico Elvio Guagnini ne parlerà con l'autore Mario Rizzarelli. Apriamo la pagina dello sport con il basket e con la promozione nella massima serie di APU Udine, che ieri in un palacarnera in festa ha battuto la diretta rivale Rimini per 95-86. L'ultima promozione è stata nel 2000. 16 anni dopo è di nuovo Serie A e sarà di nuovo derby. Udine vince e festeggia meritatamente una promozione conquistata con la continuità, unica squadra a non perdere mai due volte consecutive. Contro Rimini, seconda in classifica, meno 4, serviva a vincere per scacciare eventuali fantasmi. È per questo che nel primo tempo l'Appu gioca contratta, sbaglia tiri liberi, non incide, come gli stessi romagnoli del resto, subito con problemi di falli. La partita rimane così senza padrone, i bianconeri si aggrappano ai tiri liberi e provano una mini fuga con la tripla di Matteo De Ros, che vale il più 6, 37-31, strappo subito ricucito da Marini e Masciadri. Nonostante due alley-oop di Johnson, Udine chiude sotto il primo tempo. Nella ripresa spinta da un carnera stracolmo, i ragazzi di Vertemati scacciano la paura. A 8 punti di fila di Robinson seguono 9 consecutivi di Unichi fino ad allora in ombra, e anche Libegovic sale di livello con il canestrone del 61-52. Udine gioca d'esperienza, Xavier Johnson schiaccia al più 8, ma in qualche modo Rimini riesce sempre a tornare a distanze pericolose, addirittura meno 1 trascinata dal piccolo Alessandro Grande. Lo fa anche quando i bianconeri sono a più 10, ispirati da una schiacciata dall'altro Johnson, Justin, che fa meno 4 e fa scendere un brivido lungo la schiena ai 3002 dell'impianto dei Rizzi. Teo De Ros, che 7 anni fa aveva contribuito a riportare Trieste in A, è maestro nel chiudere di fatti i giochi con 2 punti allo scadere dell'azione che rimettono 6 lunghezze di distacco, e allora può cominciare la festa con Capitan Mirza, migliore in campo nella ripresa, e con il canestro conclusivo di Kanji, 95-86. Possono cominciare le lunghissime celebrazioni con la curva che scandisce i tempi della gioia udinese e il presidente Pedone che si toglie la soddisfazione di tagliare la retina dei vincitori. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma sentiamo le voci dei protagonisti, il capitano Mirza Alibegovic, l'allenatore Adriano Vertemati e il presidente Alessandro Pedone. Cosa significano queste lacrime per un friulano come te? Guarda, una stagione incredibile, ragazzi. Siamo stati una squadra dal primo giorno. All'inizio le cose mi sono sama, non andavano alla grande, però in qualche modo insieme abbiamo trovato una chimica e ci siamo detti che dobbiamo fare di tutto per vincere questo campionato. E poi un carnera assurdo, siamo in missione per questa gente qua che mi ha regalato un sogno. Cosa significa questa vittoria per te, per la città e per il lavoro fatto? Io non vedo l'ora di andare in vacanza. Sono sfinito perché abbiamo percepito che c'era l'occasione finalmente di regalare a questo club, a questa città, qualcosa di incredibile, perché questa è una stagione incredibile. Non so in quanti avrebbero pensato che avremmo vinto il campionato 2 giornate d'anticipo, promossi in A1, anche semplicemente dopo le prime 3-4 giornate. Udine ha un pubblico fantastico, una passione incredibile che si respira ovunque, si parla di pallacanestro dappertutto, abbiamo un movimento dietro, giovanile, di sponsor, di struttura che ci siamo costruiti nel tempo, che assolutamente merita la Serie A. L'altro giorno andavo a Roma per lavoro, mi hanno fermato in 5 salendo in aereo, tutti triestini dicendomi: dai Pres che vinci domenica, che ci si diverte ancora, però vinciamo noi, dicevo. Io ho detto vabbè, vedremo, gli ho detto, però intanto fateci arrivare. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Brutta sconfitta invece per la pallacanestro Trieste, travolta dalla Reier Venezia. Sabato al Pala Rubini arriva Trento e ci sarà modo di riscattarsi. Il ritorno sulla terra è brusco. A Venezia, diretta concorrente per i play-off, Trieste non c'è e incappa in una brutta sconfitta. Fin dall'inizio la Reyer impone la sua fisicità con i quintetti grandi, dominando sotto canestro con Cabenghele, mentre Christian, dopo due mesi ottimi, tocca il quintetto base. Fuori Ruzier, metronomo e termometro della squadra, dentro di nuovo Ross, fresco di rinnovo, che come il resto dei compagni si intestardisce in soluzioni individuali ai palleggi, trascinandosi dietro un Valentine nervoso e sprecone. Così il match prende una bruttissima piega fin dall'inizio. Il 12-2 non lascia scampo, il divario aumenta di minuto in minuto con Vilcher immarcabile da uno spaesato Jutov. Sotto di 20 ben presto Trieste non riesce nemmeno a buttarla sull'orgoglio, pur tornando a meno 11 con tripla di Jutov sul 45-34. È un fuoco di paglia. Coach Spachia trova la bomba di Ennis che vale il più 18 prima del riposo e i biancorossi nel secondo tempo non si avvicinano più. Valentine litiga con tutti mentre Cabenghele padroneggia e vola fino a più 33. L'ultimo quarto è pura agonia, 103-71 per i triestini, la seconda disfatta stagionale dopo quella a Trapani. In classifica rimangono sesti con 4 punti di margine sul nono posto. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallavolo Serie 2 maschile, playoff promozione, trasferta amara per la Tinet che ha perso a Cuneo per 3-2, giallo-blu costretti ora alla terza e decisiva partita mercoledì al Palaprata. Due semifinali, entrambe terminate al quinto set, alle quali aggiungere un match della stagione regolare terminato al tie-break. Più equilibrio di così non si può tra Cuneo e Prata. Mercoledì c'è la bella a Prata e chi vince accede alla finale promozione in Superlega. Il match in terra piemontese inizia benissimo per i gialloblu, sempre avanti, anche quando i padroni di casa hanno tentato la rimonta in extremis, arrivando a meno 2. Poi due errori di fila in battuta consegnano alla Tinet il primo parziale, 25-22. La formazione allenata da Di Pietro si trova in difficoltà nella prima parte del secondo set. Sotto di 8 lunghezze Prata reagisce con vigore arrivando a 19-22, ma l'operazione a gancio non riesce e al terzo set point Cuneo chiude 25-22, pareggiando il conto. Nel terzo set c'è equilibrio fino a metà parziale, poi Cuneo trova un paio di mini break che risultano decisivi. Il punteggio è 25-21. Copione è ribaltato nel quarto parziale prima equilibrio, poi Prata guadagna qualche punto di vantaggio e lo mantiene fino al 25-22. Il quinto set è un concentrato di emozioni. Dopo l'iniziale vantaggio di Cuneo arriva la rimonta della Tinet, 7-5 e cambio di campo sull'8-7. La reazione dei padroni di casa li porta avanti sull'11-9. Prata riaggancia gli avversari ma è l'ultima fiammata dell'incontro. Al terzo match point il nastro ferma la rimonta gialloblu, 15-13 e verdetto rimandato alla bella. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo Evolution di Orniano, frazione di Basiliano, ha vinto il campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle che si è svolto a Montichiari. I friulani si sono qualificati così per il campionato europeo in programma a maggio in Spagna e per i mondiali che si terranno in autunno a Pechino. Si chiude qui la nostra edizione del giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Riccardo Stoic e Pasquale Nocera. Da parte di Livia Liberatori di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.